Qualche tempo fa il collettivo Criticity, così vi posso denominare, ci ha scritto una mail, anzi qualcuno per il collettivo Criticity, insomma una serie di cose, giri di... il famoso networking che ha funzionato, perché c'era questo progetto di discussione della situazione attuale delle metropoli contemporanee che stava nascendo, si stava consolidando, e la possibilità di fare qualcosa insieme a questo spazio Exalge, che ha come punti cardini quello di mettere in discussione alcune come dire, alcune delle proprietà che distinguono oggi le metropoli, o comunque cercare di creare situazioni che non critichino ma rivedano e appunto mettono in discussione quello che significa abitare oggi. E credo che sia molto bello che due realtà di questo tipo si possano incontrare, possano avere un modo di dialogare tra loro e con chi è interessato a queste tematiche, quindi cos'è oggi la città, come viviamo oggi, quale sarà la città del futuro, qual è la città che desideriamo. Ho visto che siete stati a Roma ieri, che tra gli ospiti c'era Carlo Cellammare, autore di un libro molto molto interessante, Città fai da te, che secondo me già nel titolo ci racconta un po' quello che sta alla base di chi oggi vuole ripensare delle città diverse, ovvero l'autocostruzione, la produzione dal basso, il cercare di essere partecipi nella costruzione collettiva della realtà quotidiana e sociale che viviamo. E cosa significa fare questo? Significa provare a reinventare gli spazi, a reinventare e a risocializzare gli spazi e a mettere in discussione un po' quelli che sono i nostri modi di intendere, di vedere l'urbanità. Io non ho letto e non so più di quello che ci avete detto voi in queste poche righe di mail, come dicevo, che ci siamo scambiati il vostro lavoro. Però da quello che ci siamo detti, appunto, secondo me ci sono già tanti punti in comune, quindi la ridefinizione di vivere la città in un modo differente, di partire dal basso con i propri strumenti, di mettere in discussione le logiche capitalistiche. E oltre a questo non lo so, a me Giulia mi ha detto fai un'introduzione su Exalge, in realtà Exalge è tante cose e non saprei adesso come ricostruirvi il tutto. Per chi la conosce più o meno, comunque un'associazione di promozione sociale che sta cercando di ridare vita a uno spazio abbandonato attraverso vari progetti e soprattutto attraverso la possibilità di ospitare voci e persone e personalità che hanno qualcosa da dire, e cerchiamo di dare spazio e voce a questi progetti. Quindi lascerei la parola a voi. Grazie. Grazie mille per l'introduzione e grazie anche per l'ospitalità che, come appunto diceva, è stato quasi un autoinvito, no? Noi abbiamo fatto questo lavoro, che in realtà è un lavoro che va avanti da un paio d'anni, Futuri Urbani, che dà il nome alla collana editoriale composta di questi tre volumi che vedete qui sotto. Nasce in realtà come un progetto che voleva mettere insieme studenti di facoltà diverse per portare avanti un'azione propositiva rispetto alla progettazione urbana, ha preso prima la forma di un ciclo di seminari online durante il periodo del Covid-19 e poi a partire dai contributi raccolti all'interno dei seminari online ha preso forma tutto il lavoro in realtà di redazione dei saggi che sono contenuti all'interno. Sono più di 30 saggi suddivisi in tre volumi, e l'obiettivo della collana è quello di mettere in dialogo più mondi, i mondi della ricerca, dell'accademia, della progettazione architettonica e del sapere universitario, quindi della formazione anche delle competenze progettuali all'interno delle città, il mondo dell'attivismo urbano, quindi tutte le persone, tutti, non tutte, però dare voce a quegli spazi che vivono anche all'interno di logiche conflittuali con col sistema di potere urbano, un potere che ha varie forme, è un potere certamente economico e politico, ma anche un potere mediatico, un potere retorico su tutto quello che è la città lecita e la città invece che non è ben vista, quindi che adotta certe strutture retoriche come il degrado, il decoro, la sicurezza, che criminalizza certe forme di aggregazione, di socialità, di anche produzione di città, e non è mai capace di mettere in discussione invece la dinamica macrosistemica che genera la città. Una città che appunto prende forma a partire dal potere economico e poi modella, organizza e propone anche i modi di vivere la città. E noi siamo qui a Ex Alge, a Milano, in una settimana che ci siamo presi per girare diverse città italiane e per parlare anche con realtà che hanno contribuito all'interno dei volumi. Ieri eravamo a Roma, alla redazione di Scomodo, che è una enorme redazione di ragazzi e studenti che fanno divulgazione e che conta più di 500 autori in tutta Italia. Anche a Milano c'è una sede, c'è un nucleo di Scomodo, e appunto eravamo a Roma e loro hanno contribuito all'interno del terzo volume con un saggio appunto che si interroga sulle prospettive di intervento della loro realtà all'interno del contesto romano. Saremo giovedì a Genova da Buridda, che è un'occupazione storica all'interno di un ex plesso universitario che è stato riconvertito e ospita uno dei più grandi Fab Lab italiani e anche europei, e quindi sono realtà che portano avanti anche un intervento propositivo e progettuale all'interno dei contesti urbani. E mi interessava molto l'introduzione che è stata fatta di appunto avere un approccio non solo critico. Ecco, il nostro collettivo si chiama Criticity e mette insieme le nozioni di critica e di città e appunto ci vede come promotori di una postura critica all'interno dei contesti urbani, ma una critica che è anche propositiva. E infatti questa logica qui è la logica che segue e coordina l'organizzazione dei saggi all'interno dei volumi, quindi all'inizio un'analisi sulle conflittualità, sulle tensioni, anche sulle forme di ingiustizia che la città produce, veicola e rappresenta. Il secondo volume, all'interno del quale sono invece contenuti delle riflessioni sugli effetti che la pandemia ha avuto sulle città e su ciò che ha fatto emergere in termini di ingiustizia spaziale, di possibilità di accedere a determinati spazi, servizi e anche di come le relazioni sociali si sono strutturate in quel periodo. E poi l'ultimo volume invece, che è Città Viva, contiene tutta una serie di contributi che appunto hanno questo taglio propositivo, per cui si individuano certe progettualità, certe pratiche, certe modalità di rapportarsi con la città che sono appunto generative e che non vogliono prescrivere un modo di approcciare al progetto urbano, ma semplicemente propongono una modalità che è intenzionale, ma che è anche messa a terra attraverso i vari progetti territoriali, locali e urbani che sono insomma testimoniati dai contributi all'interno. Quindi questo è il progetto che stasera presentiamo. A differenza delle altre giornate di presentazione, stasera purtroppo non abbiamo nessun autore con cui parlare, quindi ci assumeremo un po' l'onere e l'onore di provare a riportare quelli che sono gli spunti degli autori all'interno dei volumi, e per fornire un quadro il più complessivo possibile, ma anche il più leggero possibile, perché comunque è un martedì sera infrasettimanale, quindi non vogliamo annoiare nessuno, appunto di intenzioni progettuali e di prospettive di progetto e di pensiero urbano, perché appunto quello che pensiamo sia importante mettere al centro della discussione non è tanto la forma architettonica, la città di pietra, i suoi volumi, le sue infrastrutture, ma proprio la riflessione attorno agli immaginari sociali, ovvero in una società postmoderna, a capitalismo avanzato, poi ci sono mille declinazioni e terminologie con cui si può definire, La cosa su cui veramente a noi sta a cuore intervenire è quella di proporre e riflettere sugli immaginari sociali, ovvero su tutto quello che non si è in grado di pensare, di immaginare e anche proprio di pianificare all'interno della città, perché monchi a livello di pensiero di una certa visione alternativa del mondo, un mondo egemonizzato da una trazione fortissima dell'economia di mercato che poi si spalma su tutto e forma gli immaginari sociali così come forma le aspirazioni delle persone, quindi quella conciliazione che c'è tra forma del contesto urbano e comportamenti sociali delle persone è in realtà un esito che è predeterminato ed è l'azione di realtà, enti che intervengono sui territori con un potere esterno che li modellano e tutte quelle linee di tensione, quelle faglie, quei momenti di conflitto sono dei conflitti locali che hanno una scala molto locale, una scala urbana, ma che appunto sono in gran parte conflitti originati da un intervento etero diretto, dalle forze, si può parlare dell'economia globale, ma anche rimanendo più terra terra, delle decisioni amministrative sulle città. E quindi questa è la cornice all'interno della quale si colloca questo progetto. Non è chiaramente un progetto che ha la pretesa di fornire delle soluzioni sicure e stabili, ma raccoglie appunto una serie di spunti sui quali, a partire dai quali riflettere sulla città e sulla condizione urbana contemporanea, e quindi di fatto sulle nostre vite, sulle vite delle persone che abitano le città. Sì, esatto, quindi io non so, vi racconto qualcosa nello specifico dei volumi e anche del collettivo, nel senso, noi abbiamo sede a Firenze e siamo vittime e qualche volta anche carnefici di quello che poi ci troviamo a subire in una città come che vive un processo di turistificazione e di speculazione molto importante. Quindi all'interno dei volumi sono raccolti saggi che guardano a Firenze, ma guardano anche ad altre città come Milano, come Bologna, Torino, Genova, Napoli, e quindi siamo riusciti, cioè, quello che ci piace riscontrare è anche un po' un filo conduttore che riesce a mettere insieme alcune crisi che sembrano sempre lampanti, ma che forse è sempre necessario in realtà andare ad analizzare ad approfondire. E in Futuri Urbani questo è fatto attraverso appunto 30-35 saggi divisi sui tre volumi, come diceva Lorenzo. Sono saggi che provengono da ricercatori, accademici, ma anche persone che si occupano di presidi e di spazi che sono attivi sui territori e che lo sono stati molto durante i periodi pandemici, ma non solo. È stato un processo di raccolta che ci ha visti attivi per un paio di anni, quindi appunto nel 2020 c'è stato tutto questo percorso di conferenze online e poi a seguire abbiamo chiesto a tutti i relatori un contributo testuale, anche nella possibilità di poter integrare altre voci. E questo è stato possibile anche proprio per il momento in cui è avvenuto, quindi il post pandemia ci ha permesso e ci ha dato l'opportunità di voler riflettere in maniera corale su alcuni temi che ci siamo sentiti tutti molto vicini, chi più chi meno, chi con più consapevolezza, chi con meno, chi con alcune intenzioni, chi con altre, ma siamo riusciti comunque a guardare alcune questioni da molto vicino nell'isolamento di una parte più privilegiata, una parte meno. Quindi i temi sono vari e sono anche appunto toccano punti molto diversi sulla riflessione urbana. Si tratta di pratiche specifiche in alcune città attraverso la gestione, la divulgazione attraverso alcuni spazi, ma anche riflessioni che toccano temi filosofici, economici e politici. Quindi la raccolta per noi è stata importante per questo, avevamo proprio intenzione che si mettessero a dialogo queste esperienze e che l'una non escludesse le altre, quindi anche queste presentazioni che stiamo facendo adesso ci interessa che siano momenti in cui riescono a entrare in contatto realtà diverse, realtà che sono appunto attive sui territori, ma anche chi è più nella parte, diciamo, di chi ci riflette sopra, ecco. E noi siamo nati un po' in questo processo qua, quindi appunto nel 2020 Criticity era Futuri Urbani era Criticity, c'avevamo anche noi un po' le idee confuse, e poi negli ultimi due anni abbiamo preso uno spazio a Firenze, dove abbiamo sede attualmente, condividiamo lo spazio con altre persone anche noi, quindi ci siamo anche resi conto un po' di che cosa vuol dire condividere e gestire uno spazio. E da lì Criticity è diventato Criticity il collettivo, e Futuri Urbani è diventato Futuri Urbani, prima in una forma digitale, poi in una collana editoriale, adesso in alcune presentazioni che vorremmo potessero tramutarsi successivamente in alcune forme laboratoriali di altro stampo. Quindi questo processo trasformativo e in continua metamorfosi ci piace che sia un po' la parte del percorso che stiamo seguendo, quindi qualcosa che è in evoluzione sia con le intenzioni del collettivo sia con la forma che Futuri Urbani ha e può assumere in una seconda fase. E noi siamo quattro internamente, qui presenti siamo tre, il terzo ragazzo è un artista ed è l'artista dell'illustrazione. L'illustrazione la possiamo trovare in forma completa, diciamo, sul poster e poi suddivisa in tre, sulle tre copertine per fasce orizzontali. Città ostile riporta la parte inferiore, città fragile quella centrale, città viva l'ultima. E all'interno di ogni copertina ci sono una serie di riferimenti, qualcuno più esplicito, qualcuno meno. E si può leggere student hotel o trovare ruote panoramiche o sigle che per noi significano alcune cose e poi hanno simbologie anche esterne. E quindi ecco, appunto, questa poi è l'illustrazione completa che si sviluppa in verticale. Tutti i saggi che sono raccolti all'interno dei volumi sono disponibili in open source online, quindi abbiamo deciso di creare un prodotto libro per una questione sì, di divulgazione, ma principalmente per una, diciamo, anche passione personale, intenzione personale nel mettere un po' di concretezza a questo progetto che stava andando avanti e che ci sarebbe piaciuto avere in qualche forma. E niente, gli autori sono tutti raccontati all'interno delle bandelle, poi negli indici, e niente, questo è un po'. Se leggendo gli indici mi viene in mente qualcosa, ci farebbe piacere stasera, proprio perché non ci sono altri relatori, magari scambiare dei pareri, delle curiosità. Quando volete. Questo è sempre il momento. È sempre il momento. C'è un momento terzo relatore. No, ma vai, tranquilla, tanto dopo si può aggiungere quello che si vuole. Vabbè. Vai, momento domande, dai. Vai, domande. No, io volevo solo, intanto grazie della prima parte di presentazione, non volevo rubare il posto. il progetto mi piace molto, lo trovo molto interessante e penso ce ne sia un gran bisogno, quindi grazie, insomma, che vi ha collato questa necessità contemporanea. E volevo capire un po' meglio se c'è una linea editoriale da parte vostra nella scelta degli autori. Avete detto sì, critica, sì, però che è critica anche propositiva e non solo appunto critica tout court. Come avete selezionato gli autori, se li selezionate in base a certi criteri, se c'è dietro un'idea, un'ideologia, un senso che una linea editoriale. La vostra scelta di autori e costruzione dei volumi. Vado? Io penso che la risposta sia nella frase prima, cioè sempre domande, la possibilità di mettere a confronto figure da mondi completamente diversi che raccontano storie completamente diverse. All'interno dei volumi c'è tanto anche una narrativa disincantata, cito il contesto di Firenze riguardo all'ostilità della città, e dall'altra parte movimenti sociali che invece portano avanti un'idea di città diversa. L'eterogeneità di chi ha scritto all'interno dei volumi penso che rappresenti poi di fatto una scelta editoriale, cioè la possibilità di mettere il propositivo di chi costruisce la città nella città di fronte a chi la osserva e ci fa ricerca da anni e su un altro livello completo, quello della didattica piuttosto che dell'università, cerca di promuovere un'idea di città o promuovere delle pratiche, e chi di fatto lotta tutti i giorni nei confronti di quelli che sono i modelli esistenti. E questo, questa contrapposizione qua di per sé penso che per noi rappresenti lo stesso modello editoriale da portare sempre, cioè mettere a confronto persone che probabilmente non parlerebbero mai direttamente o comunque non avrebbero un dialogo semplice, perché portano avanti le questioni riguardanti l'urbano e l'organizzazione dell'urbano con comportamenti contrastanti. Cioè, si parla di dialogo con le amministrazioni, si parla di conflitto con le amministrazioni, si parla di voler occupare e attivarsi per il territorio e si parla invece di portare avanti un modello di ricerca propositivo che rompa modelli preesistenti. Però la ricchezza sta in questo, cioè sta nel cercare di trovare una linea guida tra questi due fronti qua, da capire come l'elemento propositivo emerge in entrambi i casi e come evidenziarlo e sottolinearlo. Poi io penso che i titoli di questi volumi siano molto interessanti soprattutto per come ognuno di noi nella propria esistenza sta vivendo o ha vissuto la città. Ostile, fragile, viva sono termini che ognuno di noi ha provato nei confronti dell'urbano in momenti diversi della propria esistenza. Io ho passato parte della mia esistenza a Firenze e parte della mia esistenza a Milano e ho visto tutti di questi elementi. E in queste contraddizioni qua c'è l'opportunità di aprire un dialogo tra enti separati, tra persone separate, in modo tale da poi poter raccogliere una serie di contributi, una serie di esperienze sempre aperte per diventare noi stessi propositivi sul territorio. Io penso che poi la finalità degli incontri nei vari spazi all'interno delle città sia questo, cioè si parla, noi parlando dei nostri interventi propositivi che saranno, che sono, si è pensato, cioè si è parlato di recupero, si è parlato di abilitazione, si è parlato di sottrazione al cemento di spazio, spazio per le opportunità e per il dialogo. Quindi si parte dalla critica per ritrovare uno spazio fisico per mettere, come abbiamo fatto su carta, in comunicazione le stesse persone. Quindi quello che sta succedendo stasera per noi è il primo passo in cui l'editoriale diventa pratico. Cioè siamo persone diverse anagraficamente, da contesti, però questa è la nostra prima elemento propositivo. Quindi l'obiettivo, ti direi che la linea editoriale è passare più velocemente possibile dalla carta allo spazio pubblico. So se ci sono altre domande. Chi vuole? Vai, Lore. Allora, in realtà è bene appunto chiarire quell'equivoco di cui parlava Emma all'inizio, ovvero per tante persone con cui abbiamo avuto a che fare, criticity e futuri urbani erano un'unica cosa inizialmente, di fatto lo erano. La nostra mail è criticityfuturiurbani@gmail.com, quindi è anche naturale sovrapporre le cose. Il collettivo si occupa, abbiamo deciso, abbiamo individuato, abbiamo, non so, stabilito di tre ambiti principali. Il primo è l'ambito della ricerca e della divulgazione, ovvero futuri urbani, questo processo qui, i seminari all'interno dell'università, all'interno degli spazi, tutta una serie di progetti che portiamo avanti in termini appunto di divulgazione. Il secondo aspetto invece è legato alla progettazione collaborativa, ovvero noi lavoriamo anche sul piano appunto della prassi concreta, no? Marxianamente, dalla teoria alla prassi, ecco, questo ha sempre contraddistinto il lavoro del collettivo. E abbiamo sempre associato al lavoro di ricerca, di riflessione, di confronto preliminare un lavoro di intervento che prende varie che assume varie forme e che viene messo a terra attraverso vari interventi. Abbiamo coordinato dei laboratori di mappature urbane a Prato, oppure abbiamo coordinato dei laboratori di coprogettazione su Siena. Il mese prossimo saremo a Bologna a fare un laboratorio all'interno dell'ex centrale del latte di coprogettazione e autocostruzione di arredi urbani che mettano in discussione l'architettura ostile, che è tutta quell'architettura anti-bivacco, anti-sosta, che ci vuole appunto passeggeri estemporanei all'interno delle città e non persone che hanno bisogno di relazione all'interno delle città. Ecco, questo è il secondo aspetto, ed è quello della progettazione collaborativa, abbiamo scelto di chiamarlo. Il terzo aspetto invece è l'intervento propositivo nostro all'interno dello spazio urbano attraverso progetti che vanno, non hanno un collocamento specifico, ma stanno un po' nel campo dell'arte, della performance, dell'installazione, e abbiamo fatto diversi interventi, tra cui forse quello più significativo è il Museo Diffuso del Dettaglio Urbano. A Firenze abbiamo appunto fatto questa provocazione sul rapporto tra l'arte convenzionale e l'arte informale, quindi l'arte mediata, tutta l'arte che passa per i circuiti convenzionali dell'arte, i musei, i curatori, tutti quegli enti intermedi che filtrano l'arte, la scelgono e creano di fatto anche l'offerta culturale delle città, e invece l'arte immediata, che si contrappone appunto all'arte mediata in quanto si impone sullo spazio pubblico, che non è necessariamente un aspetto positivo, è anche un aspetto violento, un aspetto impositivo, cioè la street art per esempio, oppure la cultura dei graffiti impone nell'estetica urbana una visione, cioè io non al museo scelgo di andarci, al museo scelgo di compro un biglietto e voglio visitare una determinata mostra. L'arte urbana invece ha una responsabilità maggiore, a prescindere dagli intenti, dalle intenzioni degli artisti, dalla riflessione che ci può essere a monte. La responsabilità maggiore è imporsi sull'estetica urbana, imporsi con dei linguaggi, imporsi con dei contenuti e veicolarli. Ecco, a partire da questa riflessione qui, poi noi abbiamo fatto questa provocazione che è un museo del dettaglio urbano, ed è a partire dalla sedimentazione dei segni, una riflessione che ha le radici all'interno di un corso di semiotica dell'università dalla quale veniamo, appunto la sedimentazione dei segni all'interno dello scenario urbano, quindi non prodotti volontari di un artista, di determinati attori che volontariamente segnano il contesto, ma semplicemente la muffa, l'acqua, gli schizzi delle pozze, creano delle opere di fatto che hanno una propria significazione e elevate a opera d'arte attraverso il dispositivo della cornice, portano una significazione, producono un contenuto che è reso tale solamente attraverso il dispositivo della cornice, quindi è reso evidente. E questa qui è poi fa parte di una riflessione un po' più ampia, ci sono degli articoli se vi interessa la cosa con cui potete approfondire il tema, però ecco, questi sono i tre ambiti all'interno dei quali operiamo e che cerchiamo appunto di alimentare e portare avanti. L'ultimo anno di lavoro è stato abbastanza egemonizzato da Futuri Urbani, perché è stato un lavoro veramente molto faticoso, gestire gli autori, i rapporti con l'editore, con la stampa, la realizzazione artigianale delle copertine, che è stata, cioè, che è tale grazie a Claudio, che è una delle persone in cui condividiamo lo spazio e che ha questo progetto di stampa in serigrafia che ci ha permesso di ottenere un prodotto grafico degno. Insomma, tutta una serie di cose che appunto noi stiamo cercando di mettere assieme, che è iniziato come un lavoro, cioè come un progetto avanzatempo, e che piano piano diventa anche professione, quindi stiamo costruendo piano piano un lavoro di intervento all'interno della città e sulla città. Quindi questi qui sono i tre ambiti. I progetti futuri sono esattamente questi, cioè il passare dall'analisi dei contesti alla progettazione. Questo non significa produrre spazialità specifiche, ma lavorare sulla significazione, sugli immaginari sociali, e questo si fa attraverso migliaia di modi. Si può fare attraverso le mappature strategiche del territorio, quindi mappature degli spazi conflittuali, mappature delle aree di incontro per la società urbana. Si può fare attraverso i laboratori di autocostruzione di ciò che le persone che vivono i territori sentono di aver bisogno, quindi si ribalta un po' la dinamica alto-basso e a creare le risposte alle proprie esigenze sono direttamente i cittadini, che mettono a terra attraverso percorsi appunto che hanno bisogno comunque di un minimo di coordinazione, quegli spazi, quelle infrastrutture fisiche nelle città, quegli elementi che permettono loro di vivere meglio o in maniera più adeguata la socialità, le relazioni e tutta una serie di aspetti legati alla città. E niente, questo è un po' il lavoro che segnerà i prossimi mesi. Un altro, ecco, tipo di intervento che vorremmo fare al Burida, non so Matti se vuoi dire qualcosa sul parassitismo urbano, no? Ribaltare il rapporto di forza, quindi sfruttare le lacune, gli interstizi della città per produrre significazioni, produrre elementi d'uso, di vita e di relazione. Ma penso che riprendendo dal basso verso l'alto, poi di fatto in tutte queste pratiche ci sia dal basso verso tutti, cioè l'opportunità di abilitare degli spazi con utilizzi e iperfunzionalizzazioni già preventivate a diventare interpretabili, cioè lo spazio del possibile, lo spazio del desiderio, lo spazio delle necessità. Questo è possibile farlo nel pratico con degli elementi progettuali di vario tipo. È già uno spazio dei desideri o della storia, se si vuole, l'intervento delle cornici, inerentemente a cosa ti mette di fronte agli occhi con tre pezzi di legno. E può esserlo attraverso altre tipologie di interventi che partono appunto dal recupero di spazi in disuso, come si diceva, o dall'abilitazione di spazi esistenti. Io faccio un esempio di un progetto che ho in mente relativo alle potenzialità di una cosa del genere. Il cemento è quello che è. Anni fa mi imbattei in un progetto che sostanzialmente era un gesso pubblico, quindi un gesso messo a disposizione di qualsiasi spazio per poter disegnare o immaginare spazi per il gioco, spazi per la riflessione. Una tavola rotonda, che cos'è? È un disegno sull'asfalto alla fine. E quindi dove si può costruire il dialogo? Ovunque ci sia la possibilità di mettere in contatto le persone. Partendo da questa riflessione qua, gli interventi per noi possono acquistare più o meno fisicità, perché una forma di intervento, come si diceva prima, è questa, il metterci a confronto, il metterci a dialogo, o diventare effettivamente delle riappropriazioni, quindi prendere e sottrarre a quella che è la fitta maglia urbana, urbanistica, prepianificata, quello che invece è uno spazio nostro, uno spazio per la città, uno spazio ancora interpretabile, non già funzionalizzato, per permettere a quelli che sono gli elementi che escono in dibattiti come questo di prendere vita. Quindi penso che un po' le linee guida per noi siano queste. Quindi le parole che si dicevano era appunto recuperare per ciò che riguarda il in disuso, abilitare per ciò che riguarda il neutro o il non interpretato, e poi sottrarre per quanto riguarda l'interstiziale, quindi quelle fughe nelle mattonelle di un piano urbanistico predefinito, già visionato, nel senso che ha un progetto dall'inizio alla fine, e qualsiasi comportamento esterno non pianificato diventa quasi incontrollabile, perché va a coltivare dove invece era già stata predefinita una serie specifica di coltivazioni. Quindi in questi elementi qua penso che noi nel dialogo con più realtà possiamo proporre degli interventi, e penso sarà parte della città viva che ci immaginiamo, riprendendo di nuovo i titoli dei volumi, e della città delle possibilità che tutti noi vogliamo immaginarci. Io ho già una suggestione da quello che ha detto Mattia, però magari avete visto l'indice. Insomma, a me ha colpito principalmente la parola architettura stile città vetrina. Tanto dal 2015, da quando qua a Milano c'è stato l'Expo, questa città ha subito un processo di pulizia apparente, per sembrare appunto una città per il più possibile in mercato invivibile a chi doveva venire per appunto vedere Milano è come una città vetrina, e poi alla fine in realtà ovviamente cioè, si tendeva a coprire, a buttare sotto tappeto più problemi e a tentare appunto di rendere il più possibile appetibile. Non so, ma io non sfortunatamente non ho ancora letto questo libro che leggerò, però appunto queste qua sono le due parole che più mi hanno colpito, e poi anche e soprattutto sullo spazio di conflitto. Io abito in zona centrale e penso che quello sia uno degli spazi di conflitto più grandi all'interno di Milano, perché lì ci sono i militari fissi, ci sono delle persone che abitano lì e che le amministrazioni vogliono spazzare via, vogliono semplicemente spostare per non renderli visibili. Poi in realtà il punto non è dove vadano queste persone, il punto è non renderli visibili. E quindi non so, nel mio quotidiano uno degli spazi di conflitto che più vedo appunto la problematica dei senza tetto, la problematica dei migranti che vivono per strada, che qua a Milano appunto non sta venendo realmente affrontato, cioè, viene appunto buttato sotto il tappeto. Quindi non so, questo era quello che mi era venuto in mente guardando il cerchio, perché vorrei approfondire prima leggendo il libro. Però non era per quella domanda, più una riflessione rispetto a quello che avevo visto. A me è venuto in mente già un paio di spunti, poi sono due punti sui quali si potrebbe discutere una serata intera. Allora, in un saggio di metà 1800, quindi non è una questione molto recente, cioè fa parte della storia della città da quando la città è città moderna, da quando esiste l'industrializzazione, rispetto al piano Haussmann di Parigi, Engels fa un passaggio molto ironico, con una capacità argomentativa veramente umiliante per quanto riguarda la controparte del saggio, e dice: vabbè, la borghesia ha un solo modo di risolvere il problema abitativo, lo sposta da un'altra parte. E questo movimento di spostare è un movimento centrifugo, cioè la creazione delle periferie è un allontanamento centrifugo da un centro che è comunque un centro attrattivo, un centro produttivo, un centro anche di potere della città. E dicendo questo, dice che il potere urbano non ha un modo di risolvere i problemi e non è nemmeno interessato a risolverli. Ciò che vuole risolvere è l'estetica del problema. E si ritorna a quello che dicevamo inizialmente, cioè le retoriche di sicurezza, degrado, decoro non hanno una volontà di intervenire sul disagio abitativo, sull'ingiustizia spaziale, sulla possibilità di accesso, sulla povertà culturale, ma semplicemente non si vuole che ciò emerga. E quindi qual è l'azione che si fa? La si sposta, la si reclude, la si condanna, cioè ci sono mille modi, c'è cioè la coercizione giuridica, ci sono la repressione fisica, c'è cioè la giustizia dei tribunali, cioè ci sono mille modi per appunto opacizzare un problema. Il fatto è che la nostra società non è in grado di affrontare certi problemi, perché è una società che ha perso potere politico a fronte di un potere economico che è sempre più egemone e coordina comunque le forme della politica. Il neoliberismo è la realtà in cui si vive ed è questo. E quindi a livello urbano si interviene sull'estetica. E l'operazione per Expo 2015, che è l'operazione delle zone rosse a Firenze, o che può essere il lavoro sugli ambulanti a Napoli, è esattamente un approccio cosmetico alla città. Cioè si ripulisce, si sposta quello che non si vuol vedere, ed ecco qua che la città è appetibile per l'investitore, per il turista, per il soggetto che appunto deve avere un rapporto non fisico alla città, deve avere un rapporto estemporaneo, breve, magari economico, magari immediato, magari anche indiretto, perché gli investitori che poi pianificano e intervengono veramente sulle grosse trasformazioni urbane sono persone che magari non risiedono nemmeno nello stesso continente, cioè ci sono i fondi olandesi che decidono come trasformare un pezzo di città di Firenze, oppure ci sono i paradisi fiscali delle Cayman con le varie agenzie di rating che decidono come costruire a Milano. È questa la città contemporanea, è questa la città postmoderna, è questa la violenza della città. La violenza della città non è solo quella fisica della repressione, dell'architettura ostile intesa come arredo antivagabondaggio. Noi abbiamo un codice urbanistico che obbliga i progettisti a concepire degli arredi sui quali non ci si possa sedere, non ci si possa sdraiare, non sedere, scusate. Cioè la pensilina del bus, in alcuni casi anche sedere. La pensilina del bus, non so se avete presente, adesso è diversi anni che le stanno sostituendo con una barra d'acciaio alla quale si appoggia le natiche, il sedere. Cioè tutto questo intervento qui è proprio per intervenire sul piano estetico rispetto a quelli che sono i problemi fisici delle città. Te avevi detto architettura ostile e l'altro era? Città vetrina. E città vetrina. E sono due cose che vanno di pari passo, esattamente. La città vetrina è la città cosmetica, appetibile, fotografabile, adatta ai contenuti social, alla narrazione egocentrica dell'esperienza turistica, tutto quello che si vuole. Ed è tutto quello che quello che lascia sono macerie, sono povertà diffusa che viene appunto centrifugata verso l'esterno, si creano periferie all'interno delle quali poi si creano veri e propri disagi, cioè che la criminalità poi prende chiaramente il sopravvento, perché è in grado anche di... La criminalità spesso rimane l'unico ascensore sociale per le popolazioni delle periferie. Cioè spacciare è molto più semplice che studiare in periferia, scippare è molto più semplice, e quindi l'indignazione, ma anche mediatica, ma cioè proprio a livello generale, è verso il singolo fatto. Poi chiaramente sono criminali e non si discute, però non c'è mai la coscienza critica di porre gli interrogativi su come mai ci sono certi comportamenti che si addensano, che si diciamo hanno una maggior densità all'interno di certi contesti urbani. Non c'è questa capacità critica, ma perché tutto diventa, anche il giornalismo diventa intrattenimento, deve essere notizia che fa scalpore, e chiaramente è più appetibile una notizia di scippo, urti, botte e spaccio che non un ma che fine sta facendo la povertà scolastica, cioè a che punto è la povertà scolastica all'interno delle periferie. E quindi nella logica del marketing dell'informazione anche questo dà forma alla città, anche questo crea le opportunità e crea gli immaginari sociali. Cioè, le persone chiedono sicurezza, le persone chiedono decoro, ma perché il decoro e la sicurezza vengono presentati come la soluzione al problema urbano, al problema dell'estetica urbana. E quindi tutti i problemi si condensano nel vedere la miseria, vedere la povertà, vedere le cose, e poi ci si trova delle città completamente asettiche, completamente atrofizzate, in cui il modo, il comportamento sociale, il comportamento delle persone all'interno dello spazio urbano è predeterminato, è codificato. Cioè la smart city è questo. Noi stiamo lavorando a un progetto di, sempre legato all'ambito della divulgazione, dovrebbe essere un podcast, vedremo cosa diventerà, però una serie di interviste intanto, che è smart city o città intelligenti. E noi su questo piano vogliamo creare appunto questa faglia, questa linea di tensione tra la smart city, che è intelligente, efficiente, ma che di fatto codifica l'esperienza urbana, codifica le esigenze, codifica i comportamenti, rende la vita dell'individuo una performance che è quantificabile, che è premiabile, che è punibile, e tutto questo a fronte invece di città intelligenti, che sono le città che appunto provano a proporre un'idea alternativa di città, creano spazi come l'ex Alge e che in realtà rappresentano delle potenti intelligenze territoriali che però nel gioco di forze del disegno della città e della forma urbana chiaramente hanno un ruolo assolutamente marginale, ma perché appunto il potere urbano è talmente schiacciante che questi spazi di democrazia, di confronto devono essere quotidianamente rivendicati, raccontati, e tutto il lavoro di divulgazione, di far vedere che ci sono spazi del genere è assolutamente necessario per creare una controtendenza alla degenerazione urbana globale, che poi si ripete all'interno delle diverse città sotto diversi aspetti, però è quello. Andate in bagno, lo aspettiamo. Avete altre domande o sennò forse... Ma io ho uno stimolo invece sull'onda... Ah, se c'erano domande, mi fermo. Vai, domanda. Appunto il cittadino, quello che è, cioè questa che giustamente portando tantissime domande di come si muove la coscienza delle persone e del cittadino, di uscire da questi schemi decisi dall'alto. Quindi è come immagino stai facendo una sorta di caccia al tesoro, dove il tesoro è il cittadino, dove per cittadino intendiamo l'essere umano che vuole vivere questa città, che la vuole vivere liberamente, non tramite. Non è una vera e propria domanda, è proprio, cioè, è il cittadino dov'è? Dove siamo noi? Cosa, dove possiamo uscire? Cioè. Se posso, veloce, secondo me, vabbè, noi sicuramente siamo qua, siamo negli spazi, siamo nelle realtà, siamo in tutti questi punti e siamo anche in quelli che ascoltano le informazioni, che sono in grado di accoglierle o di metterle in discussione, ma soprattutto secondo me il lavoro che c'è da fare è, come diceva Lorenzo prima, sugli immaginari, quindi sulla necessità di far emergere alcune esigenze che non riusciamo nemmeno più a riscontrare. Quindi c'è questa forma di lascito a cui stiamo andando incontro, quindi assolviamo dei bisogni a cui spesso pensiamo di dover rispondere. E però di fatto forse il processo più importante è quello di ritrovare e di dare un senso alle esigenze che potremmo veramente far emergere, quindi quanti o in che modo riusciamo a raccontare quanto abbiamo bisogno dello spazio pubblico, quanto abbiamo bisogno di relazioni, di discussione, di visione critica, di sostenibilità, di alcuni parametri che potrebbero di fatto avvicinarci molto di più appunto alle relazioni e allo spazio che viviamo. Quindi secondo me il lavoro più importante è in termini di dare senso alle scelte che facciamo, alle vite che conduciamo all'interno degli spazi e al modo in cui possiamo operare su questi e soprattutto al modo in cui possiamo operare su questi in maniera collaborativa, perché spesso, come dicevamo anche ieri sera con Cellamare, appunto l'autore che citavamo anche prima di Città fai da te, si parla di veri e propri progetti di vita, quindi ci sono persone che si mettono in atto e che mettono in gioco tempo e risorse per dare spazio e voce a spazi, a posti e luoghi come questi, ma anche a realtà che non hanno una forma specifica e che quindi hanno una forma associativa più diffusa, quindi fanno un lavoro capillare e via dicendo. Quindi si tratta proprio di progetti di vita orizzontale e comune, e soprattutto perché spesso appunto la mancanza che viviamo deriva da progetti di biopolitica che invece ci vengono in qualche modo un po' imposti e che è difficile riconoscere solo questo. No, io aggiungo a questa riflessione qua che anche un po' la domanda si potrebbe ribaltare non dov'è il cittadino ma dov'è lo spazio interpretabile, dove sono le possibilità di vivere lo spazio in una maniera non conformata. Questo è uno spazio che stiamo vivendo in un modo non conforme al solito, per quello che siamo abituati nel flusso del vissuto all'interno dell'urbano. E penso che la riflessione sia anche su questo, cioè smuovere gli spazi a parlare ai cittadini, a dare un'opportunità di espressione, un'opportunità di riflessione, a soffermarsi e a dedicare parte del proprio tempo a questo tipo di riflessione, cioè come vogliamo relazionarci alle città che viviamo. Perché sì, c'è un'offerta cittadina contro cui possiamo riflettere o verso cui possiamo porci in maniera contrastante o meno. Però dobbiamo anche cercare di capire come gli spazi delle possibilità che ci sono diventino una risorsa per questi tipi di dialoghi e per costruirne di nuovi. Quindi spazi sempre meno predefiniti, ma sempre più liberi e aperti a varie tipi di realtà, a varie tipi di accessibili sotto, e inclusivi sotto tutti i punti di vista. Ecco. E, no, poi io lancio una provocazione a Emma legata alla cosmesi di cui parlava Federico prima per la contrapposizione tra città pornografica e città erotica, che è un tema su cui stiamo lavorando proprio in relazione a quello che diceva Lorenzo prima. E penso che sia interessante capire, ora mi dirà Emma meglio, come su Firenze vediamo questa realtà qua, la città vetrina, e come sulle altre città, e come per noi appunto questi due concetti possano dialogare, contrapporsi e mostrarsi. Vado forse molto veloce perché cominciamo a essere stanchi. E, allora sì, noi stiamo lavorando a questo progetto che non sappiamo bene che forma prenderà, probabilmente stiamo collaborando con una galleria, quindi probabilmente prenderà la forma di una mostra, e all'interno della quale vorremmo raccontare questo tema della città vetrina sotto il parallelismo della città erotica e della città pornografica, nei termini in cui la città pornografica assume una faccia, assume una soddisfazione immediata, assume un'immagine che in qualche modo vuole soddisfare un immaginario che ci siamo costruiti del posto. Quindi Firenze racconta con alcuni simboli l'immagine di Firenze, la soddisfa nell'immediato, la soddisfa in maniera anche molto lampante, molto, molto esposta, e non lascia spazio invece ad una città erotica, che è il tema su cui ci stiamo interrogando e che vorremmo anche riuscire a proporre in qualche chiave, che è anche il processo più difficile perché chiaramente è un sistema a cui apparteniamo tutti, quindi guardarlo da fuori è più difficile, è difficile per tutti, ed è sempre anche un po' complicato capire dove sono i limiti e qual è veramente il fuori, quindi quanto vi siamo veramente immersi. E quindi ci immaginiamo una città erotica che invece dia spazio alla spontaneità, al gioco, alla passione, all'interesse, anche al doversi scoprire e all'ammirarsi di passo passo, quindi una città che veniamo a conoscere e che non si mostra in maniera imponente, in maniera dichiarata come o almeno come fa sotto alcuni codici che sono in qualche modo un po' prescritti per una città vetrina. Quindi questi sono un po' i due filoni, e su questo è uno dei prossimi progetti che non abbiamo detto prima e che ci siamo dimenticati e su cui stiamo lavorando, e stiamo usando molto la simbologia del souvenir, della cultura egemone del turista che appunto soddisfa quell'idea da turista della città, che sì è Firenze ma sì è anche Venezia, che abbiamo visto nel suo processo molto, molto degenerativo verso la turistificazione, e questo è un po', basta. Io, se volete aggiungere qualcosa voi, Giulia, Jack, così, poi se no chiuderei, perché forse abbiamo sonno. E... grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Buonasera. Abbiamo due parole. Ciao. Presentazione, dai. Poi a seguire... Ora ci prenderemo del tempo per bere qualcosa, mangiare qualcosa, Federico ci intratterrà con un po' di sua buonissima musica, e al di là che Federico è diventato un amico, insomma lo ascoltiamo in varie situazioni, però... Ripetutamente. Esatto. La scelta di avere qui Federico è anche legata al... non glielo abbiamo detto, probabilmente ne è consapevole più o meno, non si sa quanto, però Federico con la sua musica, con i suoi testi, affronta tantissimo il rapporto con la città, e Federico parla in tutte le canzoni di Milano. E quelle sensazioni che riporta sotto forma di versi, di musica, di appunto di cantato, sono in realtà sensazioni che ci fanno immedesimare e che raccontano di una costanza nel rapporto tra persone e città che a volte mette brividi. E quindi sentire canzoni di Federico su Milano che sono assolutamente specifiche, contestualizzate, in realtà creano un'immedesimazione fortissima, ci permettono di capire quanto l'arte, quindi la musica, possa far passare dei messaggi, e magari 30 saggi non bastano per riproporre. Quindi il live di Federico è centrato ed è assolutamente, si inserisce assolutamente in una cornice di riflessione e indagine, e anche insomma di intimità con la città. Quindi sono contento in realtà che questa cosa sia stata percepita, perché in realtà era molto parallelamente anche il progetto che ho fatto uscire io e arriva direttamente dal post-pandemia. Esatto. Il fatto che sei a casa a spaccarti le, cioè, spaccarti le palle e comunque guardi fuori, la città è vuota, però te sei pieno di quella città perché fondamentalmente la tua vita è quella, cioè non so, io poi me la dico molto ultimamente da Porto Combinato. Però appunto penso che in realtà il periodo di pandemia paradossalmente sia stato anche qualcosa di produttivo, perché alla fine la noia, l'ozio un po' ti costringe a, a produrre, a fare qualcosa per sentirti un po' vivo e non sembrare che ti stai morendo addosso. Dei capolavori a volte. Ma loro non so che maledizione o benedizione gli ha preso questa roba, però sono contento di aver sentito queste parole, mi fa davvero tanto, tanto piacere. Grazie. Grazie.